Baila. Baila. Tre del mattino, fuori de Gabo. Ancora in giro, come se balla. Trucco sbavato, vedi se balla. Mambo Salentino. L'autostrada del sole mi riporta da te. Quanta fretta che c'ho, il mio quinto caffè. Quando torno non voglio un minuto di stress. Penso solo a star bene, tu sei peggio di me. Sinti fuori de Gabo. Come un'estate in Salento. Trovarsi dentro una dancehall. Tornare indietro nel tempo, peggia mia. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada sento l'estate che c'è nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino al mattino. Mambo Salentino. Mambo. Mambo Salentino. Mambo, mambo. Sta cadendo una stella, è solo un punto nel cielo, ma la più bella è già a terra a fianco a me. Ho espresso già il desiderio. Sta ballando come se il mondo la guardasse. Muove quel bacino come se parlasse. Principessa del quartiere, sembra una velina. Sei diversa, sei speciale, tu sei salentina. Dimmi cosa succede se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada sento l'estate che c'è nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino al mattino. Mambo Salentino. Mambo, mambo. Mambo Salentino. Mambo, mambo. Non sarà per sempre, ma una sola sera con le stelle mi basta, anche se veloce come un treno che passa. Non sarà perfetto, ma è così bello stare qui a ballare abbracciata con te. Mambo. Un mambo salentino. Mambo.